9 in punto. La politica nel tunnel. Però a me mi sembra che questi partiti qua, tutti e tre, stanno giocando con le figurine. Te ne do due, me ne dai una, te ne do tre, te ne do due. Che la piantano di dire, lei non siamo qui mica a vendere le noccioline. Voi siete lì per noi, non per voi. Ma fate qualcosa in fretta, perché l'Italia sta morendo. E io sono uno di quelli. Buona giornata, care ascoltatrici e cari ascoltatori, come avete sentito, anche se la puntata di oggi è dedicata, dopo la chiacchierata che abbiamo fatto con Roberto Saviano durante 24 Mattino al tema della cocaina, comunque non ci facciamo mancare il nostro ascoltatore Angelo da Bergamo. Ci ricordate, ci chiedete di ricordare, oltre al countdown, al conto alla rovescia che facciamo ogni giorno, all'innalzamento di un punto di IVA, arriva a fine trasmissione, quindi potrete scoprire a quell'ora quanto manca, ci raccomandate di ricordare da quanti giorni abbiamo votato e siamo ancora in pieno stallo. Bene, sono 39 giorni e lo stallo al momento persiste. Dunque, veniamo al tema di oggi, ci accompagna almeno in questi primi minuti ancora Gianfranco Fabi. Di nuovo buongiorno. Buongiorno Gianfranco, grazie Simone. Che... appena finito 24 Mattino, sarà con voi anche per tutta la prossima settimana, perché il nostro Alessandro Milan, insomma, dategli un po' di respiro, un po' di vacanza, se la prende anche lui, giustamente. Oggi parliamo dunque di cocaina. Giovanni Serpelloni, capo del Dipartimento Politica Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Abbiamo ospitato poco fa Roberto Saviano, con lui naturalmente ci siamo concentrati, visto che appena uscito esce oggi il suo libro 000, ci siamo concentrati soprattutto sul lato del traffico internazionale di droga, di come funziona, di quali sono i meccanismi, perché c'è molto di tutto questo nel libro di Saviano, come è perfettamente naturale. Con lei naturalmente toccheremo più il tema delle dipendenze e soprattutto della pervasività, questo sì tema già toccato anche con Saviano, della pervasività della cocaina nella nostra società, nel nostro mondo e nel nostro paese. C'è oggettivamente, non è da oggi che lo diciamo, è a dir la verità, però insomma vale la pena parlarne, perché c'è un livello di diffusione pazzesco e per certi versi inaspettato. La cocaina è la droga che usano tutti di tutte le classi sociali, Serpelloni. Ma guardi, io chiaramente ho un approccio tecnico-scientifico, per cui le parole che vi dirò le peso e le porto poi sulla base di evidenze anche epidemiologiche, no? E dire che tutti usano cocaina mi sembra un po' esagerato, non voglio contraddirla chiaramente, ma no, semplicemente... Vabbè, è chiaro, no? Sa che noi giornalisti esageriamo sempre, insomma. Vabbè, no? questo me ne sono accorto, ma a volte esageriamo anche noi nel dire le cose. Allora, se partiamo dei dati concreti, i dati concreti sono questi, guardi, poi le dirò anche prima di dirle i dati come li raccogliamo. Noi andiamo a fare un mestiere anche un po' sporco, andiamo nelle acque reflue, andiamo nelle acque delle fogne a misurare i metaboliti che... fuoriescono dalle persone che usano cocaina. Abbiamo 18 città in tutta Italia che teniamo sotto monitoraggio stretto, chiaramente dalle più grandi tipo Milano, Roma, Napoli, anche quelle più piccole, per andare a vedere come da 3 anni, soprattutto 4 ormai, c'è questo trend. Allora noi quello che possiamo dire intanto come trend, ed è una bella notizia, è una notizia comunque anche di conforto europeo, nel senso che anche in Europa va così, il consumo pro capite di cocaina diminuisce, e questo è una cosa importante da vedere. Ma Serpelloni, ma anche a causa della crisi forse, o no? Ma guardi, le cause poi le possiamo studiare, sicuramente, perché è complessa la questione, sicuramente anche a causa della crisi economica, perché i consumatori di cocaina vanno divisi in due grossi blocchi. Uno sono quelli che la usano tutti i giorni perché hanno una dipendenza stabilizzata, altri sono gli occasionali, che sono la maggior parte. Tenga conto, le do sempre due numeri molto macroscopici, sono circa 380-400 mila le persone dipendenti da droghe in generale in Italia, però sono 2,5 milioni, quasi 3 i consumatori. Quindi c'è una grossa parte di occasionali che non hanno una dipendenza stabilizzata e che quindi possono anche permettersi di non utilizzarla perché magari hanno delle ristrettezze economiche. Ecco, però il dato eclatante, o comunque quello che a noi sicuramente impressiona è il fatto che il consumo sta calando da 3-4 anni. Questo lo vediamo non solo con l'indagine dell'acqua reflua, che è un'indagine indipendente perché la fa l'Istituto Mario Negri, ma poi anche altri istituti in giro per l'Italia, nei fiumi delle città, nelle fogne delle città, ma anche dei dati che vengono su delle survey, su delle indagini che vengono fatte sia nella fascia 15-19 anni, quindi la fascia più a rischio, nelle scuole, sono campioni elevatissimi, stiamo parlando di 40.000 persone intervistate, sia nella fascia che va dai 19 ai 64 anni. E quindi questo è il dato di fondo. Poi sicuramente è una droga che ha preso molto piede negli ultimi anni, dentro questo trend comunque, che è appunto un trend per quello che ci riguarda, una diminuzione dei consumi è una buona cosa, no? È chiaro che non possiamo fare i salti di gioia o pensare di aver risolto il problema, però si può vedere come anche l'eroina e come le altre droghe, che il fronte delle droghe, dell'uso delle droghe ha dei cedimenti, che non sono solo italiani per fortuna, ma sono europei. Quello che poi possiamo dire è che ci sono delle città che sono particolarmente resistenti però, e nell'ordine sono Roma, Napoli, Milano. Queste tre città sono particolarmente coriacee, anche perché probabilmente lì ci sono il più alto numero di persone veramente tossicodipendenti. È anche qualcosa che ha a che fare con la vita nelle grandi città, probabilmente, perché è una droga che si presta, no, ad un tipo di vita convulsa e complessa come quella delle grandi città. C'entra qualcosa questo? Sì, c'entra sicuramente, perché se andiamo a vedere le motivazioni, non solo quelle consce, ma anche quelle inconsce, se vuole, che per cui le persone utilizzano questa droga, è una droga chiaramente performante, no? Molto lo usano effettivamente per aumentare falsamente, tra l'altro, le performance, perché aumentano la percezione di un aumento della performance, ma però se si va a vedere poi con delle prove sperimentali quanti errori si commettono in più sotto l'influsso di cocaina, anche decisionali, no? E ricordo solo quelli che possono avere degli incarichi importanti a livello manageriale oppure di scelte anche nella vita economica del paese, no? Sono studi fatti questi soprattutto negli Stati Uniti con i grandi manager. Sono sostanze che alterano che cosa? La capacità di analisi della realtà e il decision making, entrando un po' nei meccanismi che neurofisiologici che può andare a compromettere, diciamo, questa sostanza, no? Una cosa che abbiamo visto, non so, credo che possa interessare sempre in relazione alla domanda che lei ha fatto e l'affermazione che ha fatto, è che la cocaina deprime una parte importante del nostro cervello, che è la parte forse che ci distingue dagli altri animali, e che è la parte dove noi abbiamo il raziocinio, il giudizio, che è il lobo prefrontale, cioè quello che sta di fronte, in zona anteriore, diciamo così, del cervello, e che è quello che ci controlla i comportamenti volontari e le scelte, e la capacità di distinguere se questa è una cosa più o meno a rischio e quindi prendere delle decisioni consapevoli e responsabili. Ecco, ci sono degli esami, un esame particolare, la PET, che noi abbiamo fatto ancora molti anni fa, che dimostrano che chi usa cocaina ha un metabolismo molto molto più ridotto in quella zona, che è la zona appunto della decisione, e che perdura anche dopo 100 giorni che ha sospeso di usare questa sostanza. Gianfranco, Fabi. Ma indubbiamente è confortante il fatto che ci siano dei dati che dimostrano che c'è una diminuzione dell'uso di cocaina, come giustamente dicevi Simone, probabilmente anche dovuto alle crisi economiche, alle difficoltà, in fondo consumare cocaina costa, però c'è anche da dire che bisogna non perdere di vista il tema di fondo, che è quello di un mercato, come dimostra, abbiamo visto parlando del libro di Saviano poco fa, di un mercato che è colossale, di un mercato che è uno dei più grandi del mondo, anche a livello economico, che sposta miliardi non solo di euro ma anche di dollari, anzi soprattutto di dollari, e che è in grado di condizionare anche parte della vita economica al di là dello stretto consumo di droga. Quindi c'è una macchina estremamente complessa. Leggendo questo libro di Saviano sicuramente si viene a conoscenza di fatti, di elementi, di circostanze che sorprendono come vastità del fenomeno, come capacità appunto di questo sistema di condizionare non solo le singole persone ma tutta una società. Ecco, quello che diceva Simone, tutti consumano, non è tanto che ognuno di noi consuma, ma possono essere il nostro vicino, le persone più inaspettate. C'è veramente un consumo che è diffuso in ogni strato sociale e in ogni condizione, ed è questo che è preoccupante, ed è questo forse che, ne parlavamo appunto prima con Saviano, deve richiedere un'attenzione, un'educazione continua, soprattutto verso i giovani, proprio sollecitando l'attenzione verso la fiducia in se stessi, ma anche facendo conoscere i meccanismi, come giustamente diceva poco fa, i meccanismi di una droga che sembra nel momento, nell'immediato, dare euforia, dare capacità, dare potenza, e che poi si traduce però in una mancata coscienza, in una mancata coscienza del rischio, in una mancata coscienza del pericolo, in una mancata coscienza delle proprie possibilità, quindi in un annullamento di quello che è più forte nella propria personalità. Quindi parliamo di droga, parliamone nella coscienza di fare qualcosa che rischia, che può smuovere la coscienza di ciascuno, e soprattutto l'impegno di ciascuno nella sua parte, nella sua capacità di relazione, di portare appunto questo messaggio importante per tutta la società. Allora, piccolo alleggerimento, ci arriva via Twitter da Lia Celi, ci raccontava prima Saviano di quanto rende l'investimento in cocaina, diceva da 1000 euro se ne ricavano, di investimento se ne ricavano 180.000, ci dice più che a 9 in punto, bisognava parlarne a Salvadanaio. La battuta non è male, però al di là di questo, visto che parliamo di cose serie, saluto anche Pino Arlacchi, ex direttore dell'ufficio ONU per la lotta alle droghe, eurodeputato del Partito Democratico. Buongiorno Arlacchi. Buongiorno a tutti voi. Allora, abbiamo ospitato Saviano poco fa e lui diceva, insomma, pur con tutti i dubbi morali che questo può portare, per togliere armi al narcotraffico probabilmente non c'è altra soluzione, oppure la soluzione più netta e più chiara potrebbe essere quella della legalizzazione. C'è una scuola di pensiero anche ufficiale, Arlacchi, che ormai va in questa direzione. Lei come la vede? Non sono mai stato favorevole a questa proposta, perché è basata su un'analisi che è sbagliata, e le esagerazioni fino al limite del paradosso che io vedo quando si parla del mercato delle droghe, in particolar modo della cocaina, non aiutano certo a capire. Per esempio, Saviano dice che la coca la prendono tutti, che tutte nel giro dei nostri conoscenti c'è almeno uno, più o tanti consumatori. Ma non so su che cosa basi questa affermazione, perché i mercati della droga e i consumi sono studiati molto bene, ci sono studi regolari fatti soprattutto dall'ONU in campo mondiale, ma poi fatti anche dai vari organi competenti, che dicono cifre precise. In Italia i consumatori, in tutto il paese, sono, secondo la stima di massima, sono 300.000. 300.000, siamo 60 milioni di persone, sono lo 0,5% della popolazione, e i consumi sono piuttosto aumentati fino a un certo punto, ora si sono stabilizzati e cominciano a diminuire, ma insomma siamo su cifre minime dal punto di vista del fenomeno di massa. Quindi dire che chiunque ci circondi prende la coca è una grossa esagerazione, numero uno. Quindi parlare di questi fenomeni senza avere un po' l'idea delle proporzioni delle cose di cui si sta parlando non aiuta sicuramente. La drammatizzazione estrema poi porta a proposte estreme e di ripiego, che significa accettare una sconfitta e comportarsi di conseguenza. E poi, quando si parla di queste cose, bisogna anche citare i danni che fanno le droghe, e non vengono mai citati. Ci sono in tutto il mondo 250.000 morti per overdose di droghe pesanti ogni anno. Ci sono danni immensi al sistema sanitario, che deve sostenere costi esorbitanti per la cura dei dipendenti. E poi ci sono tutti gli altri fenomeni, l'impulso che viene dato alle conflitti, alle guerre e alla violenza privata in gran parte dei paesi. Però, come dire, quando si parla di questo, ripeto, un minimo di documentazione internazionale, altrimenti non si va da nessuna parte. Continuano a ripetere cose da anni 80. Questa storia della coca che dilaga è una storia degli anni 80. Io me ne sono occupato a quei tempi, quando un chilo di cocaina costava in Italia l'equivalente di 400.000 dollari americani, ecco, me ne sono occupato, ho cominciato a occuparmene quasi 40 anni fa di questo argomento. Il mercato è completamente cambiato. Un chilo di cocaina all'ingrosso adesso costa un ventesimo di quello che costava 30-40 anni fa. C'è stato un crollo dei prezzi straordinario. In America, che era allora il mercato più grande, c'è stato un crollo totale dei consumatori. C'è stato in Europa un aumento che non ha compensato le perdite americane. Per cui oggi, in definitiva, in poche parole, abbiamo dei mercati che sono un quinto di quelli che erano 30 anni fa, quando davvero si aveva la sensazione che la cocaina dilagasse, che non ci fosse argine al consumo e che l'unica soluzione fosse la legalizzazione. Questo detto in due parole, quello che penso io. Arlacchi, intanto la interrompo, perché voglio sentire da Serpelloni se ci conferma la stima. 300.000 i consumatori di coca in Italia? Sì, le parole di Pino Arlacchi, sagge e competenti, gliele possiamo confermare, anche perché le stime che abbiamo fatto sono pubblicate sulla relazione al Parlamento, sono dai 300 ai 380.000 in Italia, diciamo, i tossicodipendenti in generale. Poi bisogna anche aggiungere un'altra cosa, secondo me, che sempre su questa scia, guardate che il fatto di continuare a dire che queste droghe sono ovunque, che si crea un effetto che è stato studiato, con uno studio tra l'altro che è durato 30 anni negli Stati Uniti, e si va a diminuire quello che è la disapprovazione sociale, si chiama in termini tecnici, cioè vuol dire che le persone si abituano, calano la percezione del rischio. Beh, se così fanno tutti, allora perché non lo posso fare anch'io? E ci sono prove scientifiche che questo modo di fare comunicazione fa aumentare il consumo delle sostanze. È stato studiato in particolare per la marijuana, che è quella più, tra virgolette, accettata perché si pensa che sia la meno pericolosa. Quando la disapprovazione sociale arriva a livelli dell'80% espressi, per esempio, il consumo cala al 20-25%. Quando questa cala al 40%, il consumo va oltre il 50%. Quindi anche questo fatto di comunque farla percepire come una cosa che fanno tutti, i ragazzini poi che non hanno modelli e strutture cognitive particolarmente elaborate, elaborano comportamenti che sono quelli del consumo. Quindi una particolare attenzione in termini di comunicazione va messa, perché ha un valore preventivo enorme. E guardate, ci sono studi, come ripeto, che l'hanno dimostrato con 30 anni di osservazione, non con 2-3 anni. No? Questo è importante da dire. Io vorrei aggiungere solo un'altra cosa. La vera battaglia preventiva si basa nel creare la consapevolizzazione, la consapevolezza all'interno delle persone che non solo la cocaina fa male, perché questo è una cosa che ormai credo l'abbiamo detto più volte, ma anche che chi compra un solo euro di cocaina, ma di qualsiasi droga, no, si deve sentire compartecipe al finanziamento delle organizzazioni criminali mafiose. Cioè quel soldo che tu dai in quel momento va a finire nelle mani delle mafie, delle loro violenze e del terrorismo. Ora, non c'è questa consapevolezza, l'abbiamo proprio testata, siamo andati a cercarla nei giovani. Quando dici, ma tu lo sai che quando dai anche quell'euro per comprarti quel grammo di fumo al di là della cocaina, poi questo va a finire lì, facendogli vedere anche le immagini che questo comporta, no? da tutto ciò che abbiamo visto anche in Italia, non solo all'estero, in queste cose qui. Ecco, questa consapevolezza, questa responsabilizzazione anche nei confronti non solo della propria salute, della salute altrui, ma anche di sostenere con dei micro assegni le organizzazioni criminali va creata. Questo, secondo me, è il punto fondamentale della comunicazione. 9 in punto. Ci chiede un ascoltatore, scrive a me, se volete mi trovate, Simone Spetia. Ci chiede un ascoltatore, Marco, se questi 300.000, Serpelloni, giro la domanda a lei, sono dipendenti o insomma sono consumatori anche occasionali? No, sono tossicodipendenti, vuol dire che tutti i giorni hanno bisogno di farsi, diciamo, una dose, e pena l'avere sintomi come l'astinenza o sintomi molto disagianti per loro, insomma. Ecco, i consumatori occasionali possono arrivare fra i stimati fra i 2 milioni e mezzo e i 3 milioni di persone. Ah, ok, quindi la dimensione direi è decisamente diversa da questo punto di vista. Saluto sì. Roberto Pennisi, magistrato della Direzione Nazionale Antimafia, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno, allora... Intanto la saluto, che così insomma sapete che in onda con noi e quindi adesso parleremo anche delle strategie di contrasto. Però voglio anche sentire qualche ascoltatore. Sentiamo Dino che ci chiama da Milano. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Io volevo soltanto riportare una classifica della rivista Lancet, che immagino tutti quanti conosciate, una delle riviste mediche più importanti del mondo. Questa classifica è sulla tossicità e la dipendenza delle droghe. Ebbene, chiaramente mette al primo posto l'eroina, la cocaina al secondo, al terzo ci sono i barbiturici, al quarto il metadone e al quinto l'alcol. Allora io mi domando, innanzitutto la definizione di droghe pesanti dalle persone insomma che sono presenti adesso con lei in radio e capire qual è la differenza fra l'utilizzo in termini di tossicità della cocaina magari per un numero ridotto di persone, come dice appunto la persona appunto intervistata da lei, rispetto all'alcol. Cioè, e poi volevo riportare un altro dato, probabilmente in Italia il fatto che la popolazione è molto in là con gli anni condiziona un po' l'utilizzo di droga rispetto ad altri paesi, cioè voglio dire, se siamo tutti quanti vecchi è chiaro che l'utilizzo di droghe è ridotto rispetto ad altri paesi dove sono molto più giovani. Grazie Dino per le sue domande e anche per le sue osservazioni. Sentiamo anche Paolo che ci chiama da Padova, buongiorno. Buongiorno a voi, io avevo una domanda un pochettino diversa da fare, ovvero dato che prima stavamo parlando di 2 milioni e mezzo, 3 milioni di consumatori occasionali, e questi consumatori occasionali, ve lo dico dato che ho 26 anni, un pochettino di, diciamo, di tatto con il settore ce l'ho, sono tanti consumatori di sostanze stupefacenti che erano state classificate come leggere. Perché allora non fanno lo Stato italiano come tanti altri stati, non solo europei ma anche dell'America, perché adesso siamo passati da 7 a 11, non dico tollerare o liberalizzare completamente le droghe leggeri, però gestirle in maniera diversa, dato che c'è lo Stato che ormai ha il monopolio sui tabacchi, che è una delle principali fonti di morte, sull'alcol, che come ha detto l'ascoltatore precedente sono al quinto posto, a questo punto che legalizzino un pochettino anche le sostanze stupefacenti leggere, in modo che lo Stato ci rientri di soldi e elimina completamente il mercato alla mafia. Perché se i 2 milioni e mezzo di consumatori occasionali sono quelli che fanno far cassa alla mafia, sicuramente non saranno quei 300-400 mila che possono, che riescono a tenere su tutto quanto insomma l'organizzazione criminale. Questo è il mio pensiero, però sono un pensiero che non penso sia difficile da condividere, o sbaglio. Grazie Paolo. Adesso io questa cosa qua, questa sua ultima domanda, poi veniamo alla domanda di Dino da Milano, che secondo me compete più a Serpelloni eventualmente. Io voglio girarla a Pennisi, come la vede lei? Insomma, è chiaro che insomma, la sua posizione è particolare, è un magistrato, per carità di Dio, quindi magari non si vorrà esporre da questo punto di vista, però potrebbe togliere una fetta di mercato alle mafie, un'operazione di questo genere? Ma guardi, la osservazione è estremamente fondata, quella effettuata dal vostro ascoltatore. Si tratta di scelte che fanno gli stati, i quali possono ritenere che una certa sostanza circoli oppure no. Sono scelte che fanno gli stati, che fanno i legislatori, come le possono fare su tanti campi. Ci fu un periodo in cui negli Stati Uniti l'alcol era proibito e ciò scatenò un grande interesse del crimine organizzato che fece tanti soldi col contrabbando dell'alcol. Lo stesso si può fare per la droga, non c'è da scandalizzarsi su questo. Ovviamente io da magistrato posso dire che la droga è una sostanza vietata, quindi ecco, per me la droga è un qualcosa di fuori legge. Sono scelte, ripeto, del legislatore che certamente se oggi domani si liberalizzasse qualche tipo di droga si tratterebbe senz'altro di una fetta di mercato che verrebbe sottratto al crimine organizzato. Pennisi, immagino che la cosa vi inorgoglisca, perché Saviano nel suo libro insomma dice: ragazzi, noi stiamo dando lezioni a tutto il mondo su come naturalmente si contrasta la mafia e su come a questo punto si contrasta il traffico di droga. Sì, è proprio vero. Quando si riferisce a noi si riferisce all'apparato repressivo dello Stato italiano, cioè magistratura e polizia giudiziaria, che da tempo operano in maniera eccezionale nel contrasto del traffico degli stupefacenti. Effettivamente siamo in condizioni di dare punti a tutto il mondo in materia di azioni investigative contro il traffico degli stupefacenti. E purtroppo devo dire che l'azione non è corale, perché se ci fosse stata un'azione corale da parte di tutti gli apparati repressivi a livello internazionale, probabilmente il traffico degli stupefacenti, dei narcotici in genere, non avrebbe queste dimensioni. E purtroppo la lotta al traffico degli stupefacenti si scontra anche con esigenze politiche, strategiche e direi anche finanziarie, visto che purtroppo oggi in una situazione di crisi mondiale economico-finanziaria il traffico degli stupefacenti ha un peso. Ha un rilievo a livello finanziario, perché solo i sciocchi possono non pensare che il frutto a livello economico-finanziario del traffico degli stupefacenti non abbia un peso nella economia mondiale. Un peso notevole, come si diceva in apertura di trasmissione questa mattina alle 8:30. Allora, adesso un paio di domande agli altri nostri ospiti. Inizierei da Arlacchi, perché l'ascoltatore di poco fa ha chiamato in causa nuovamente i numeri, così come lo ha fatto chi ci ha scritto su Twitter e Serpelloni con la sua risposta. Dice: in realtà i consumatori occasionali sono, mi pare ha detto, tra i 2 milioni e mezzo e i 3 milioni, e poi ci sono quelle cifre citate, quei livelli di consumo citati dall'ascoltatore sull'Anset. Arlacchi. Dunque, i 2-3 milioni si riferiscono a tutti i consumatori casuali di qualunque tipo di droga. Conferma Serpelloni, conferma Serpelloni. Allora ho capito male io, scusate. Certo che conferma Serpelloni. Questi sono i dati, su cui si basano le politiche internazionali e nazionali, e non sono così opinioni. Allora, il consumatore occasionale di droga significa una persona che può aver preso la droga o aver provato una volta e non averla provata più. Nei calcoli che si fanno sulla domanda si considerano i consumatori regolari, quelli che danno luogo a un mercato stabile e danno luogo anche al problema. Ora, per quanto riguarda il rapporto della criminalità organizzata, che è stato richiamato da tanti, guardate che negli ultimi tempi, negli ultimi 10 anni, grazie proprio all'offensiva contro la droga e contro la criminalità organizzata, questi mercati sono cambiati radicalmente. I grandi cartelli criminali sono stati tutti smantellati in Italia ed altrove, in tutto il mondo, dalla Russia alla Colombia, all'Italia, all'Albania, al resto del mondo. I cartelli criminali che conoscevamo negli anni 80 e 90 non esistono più. ci sono cartelli più piccoli, ci sono organizzazioni più agili, ma il mercato si è in larga parte fluidificato e i profitti non affluiscono più come una volta a delle grandi centrali criminali capaci di mettere in pericolo interi governi o intere nazioni. Si cita spesso il Messico come esempio di una società che il Messico ha questo enorme problema dei 40-50 mila morti all'anno per scontri da narcotrafficanti, non tanto perché è diventato la sede del passaggio privilegiato tra la Colombia e gli Stati Uniti, quanto per il fatto che nel Messico è disponibile una quantità di armamenti assolutamente eccezionale. Quindi uno scontro che tra due gruppi di gangster, perché in Messico di formazioni mafiose vere e proprie non ce ne sono, sono gruppi gangsteristici anche immensi che si formano e si disfano con una velocità incredibile. Un qualunque scontro tra due gruppi armati che in Sicilia o altrove provocherebbe un morto o due o cinque, ne provoca 50, 100 e certe volte migliaia, proprio perché hanno a disposizione fucili automatici, hanno a disposizione bazooka, hanno a disposizione armamenti pesanti che prendono dagli Stati Uniti, grazie alla grande disponibilità di armi negli Stati Uniti che confinano con il Messico e che inondano il Messico di armi, per cui abbiamo questa situazione assolutamente abnorme. Nel resto del mondo, soprattutto nei mercati ricchi, la violenza del mercato della droga è diminuita drasticamente. Se lei va oggi a New York, a Sud Manhattan, lei trova una situazione di mercato della droga che non è assolutamente quella di 20 o 30 anni fa. Quando io sono andato insieme al giudice Falcone nell'82 a Manhattan a visitare il procuratore antidroga di New York, era come andare a Palermo, nel senso della violenza che si percepiva dovunque, nel senso delle macchine blindate, nel senso delle protezioni agli investigatori a 24 ore su 24. Oggi non nessuno si accorge se fa lì di vedere questi, i mercati sono cambiati, per cui ripetiamo quando parliamo di queste cose, dei cliché che si riferiscono a situazioni di 20 o 30 anni fa. I gruppi criminali hanno cambiato strategia, adesso fanno sempre la droga, ovviamente, perché comunque è un mercato che rende moltissimo. Ma adesso il fatturato globale delle droghe non supera il 20-30% dei profitti dei grandi gruppi criminali, i quali si sono dati ad altri mercati. Se prendiamo la cocaina, per esempio, quello di cui stiamo parlando adesso, i sequestri di cocaina oggi raggiungono quasi la metà della coca che viene prodotta. Quindi sì, si fanno tutte queste cifre, ma non si dimentica di dire che dalla produzione della coca, che una volta raggiungeva i mercati finali per oltre il 90%, oggi la metà viene sequestrata, quindi è molto rischioso entrare nel mercato della coca. Arlacchi, mi scusi, mi perdoni, la interrompo perché abbiamo una pausa, poi voglio riprendere, così la faccio concludere su questo. 9 in punto. Allora, Arlacchi, conclude il discorso e poi magari sentiamo anche qualche altro ascoltatore, prego. No, volevo concludere semplicemente dicendo che occorre un po', quando si parla di questi argomenti, aggiornarsi un pochettino. E certe volte anche gli investigatori più volenterosi, persone che io rispetto profondamente, quando parlano di queste cose, certe volte gli zeri gli scappano molto facilmente. Leggete il rapporto ONU che si fa ogni anno sul mercato delle droghe, in cui paese per paese, droga per droga, viene analizzata la situazione, vengono date delle cifre che mostrano sempre un grosso mercato, non sarò l'ultimo delle persone a dire che la droga non c'è. Il mercato c'è, è molto forte, continua a resistere, ma non è niente che noi non possiamo sconfiggere. Questo è il punto fondamentale. Noi ci stiamo proponendo a livello mondiale di sconfiggere fenomeni, patologie 100 volte superiori a quelle della droga. Ci stiamo proponendo di fermare il riscaldamento dell'effetto serra, ci stiamo proponendo di togliere la povertà dal mondo, e l'abbiamo dimezzata in meno di 10 anni, e non siamo in grado di pensare ad un mondo con i consumi di droga ridotti al minimo, in cui la droga non è più il problema che era. Il mondo va in quella direzione comunque. Siamo noi che siamo vittime di ideologie e di cose vecchie di 30 o 40 anni, ed è qui che dobbiamo cambiare. Sentiamo qualche ascoltatore ancora. Patrick ci chiama da Lucca, buongiorno. Buongiorno. volevo intervenire perché io ho 40 anni, quindi non si parla di 30 o 40 anni fa, e sono scioccato dalla cifra che ha dato chi è intervenuto prima di me, di 300.000 consumatori di droga, in particolare della cocaina. Io sono un ragazzo, anche se ormai ho 40 anni, e posso dire che per mia esperienza personale conosco molte persone che hanno fatto uso di cocaina e che ancora fanno uso di cocaina, ma sono inseriti nella società, proprio come diceva Saviano, quindi non si percepisce forse quanti sono i consumatori abituali o occasionali, ma sono tantissimi e non i 300.000, anche perché non si capirebbe come ci sia questo giro d'affari in Italia legato alla droga se sono solo 300.000 consumatori. Sì, e però Serpelloni, quelle sono cifre ufficiali, direi. Cifre ufficiali, guardi, le ripeto perché vedo che c'è un po' di confusione, forse siamo stati noi a generarla. Dai 300 ai 380.000 i tossicodipendenti, quindi malati, che usano quotidianamente qualsiasi tipo di droga. Questi, okay. Più gli occasionali, arrivano dai 2 milioni e mezzo ai 3 milioni di persone. Questa è la cifra ufficiale pubblicata, fatta con dei metodi scientifici, chiaramente pubblicata sulla relazione al Parlamento. Ecco, se posso poi aggiungere due cose. Avete il dato scorporato per la cocaina, così facciamo anche un po' di chiarezza da questo lato, Serpelloni? Circa il 40%, dal 40 al 50%, perché poi ci sono delle variabilità chiaramente regionali, no? Dei tossicodipendenti, stiamo parlando delle persone attive quotidianamente, sono da cocaina. Fondamentalmente nel nostro paese ci si sta contendendo il primato fra eroina e cocaina. Poi aggiungo un altro dato che è importante: 180.000 persone sono già in carico ai servizi e vengono curate quotidianamente. Ecco, questo è il profilo, diciamo, di quello che può essere a livello italiano la concentrazione dei consumatori. Rispetto alla domanda che aveva fatto quell'ascoltatore precedentemente sulla classifica delle droghe, eccetera, in relazione anche alla legalizzazione, io vorrei dire questo, sempre con un approccio molto tecnico. Proviamo a ragionare su quali sono le due sostanze al mondo più legalizzate, psicoattive, vero? E quelle più consumate, sono l'alcol e il tabacco. Se andiamo a vedere che cosa è successo, poi anche si citava il discorso del proibizionismo degli anni 20, gli anni 30, con uno studio australiano che è uscito qualche mese fa, che ha revisionato quello che poteva essere poi la conseguenza della cessazione del proibizionismo da un punto di vista sanitario, a distanza di 60 anni, no? E vediamo che c'è stato un aumento delle patologie epatiche, cardiache, tutte correlate e neoplastiche, tra l'altro l'alcol è una sostanza che è cancerogena, no, negli Stati Uniti, che è stato enorme. E quindi io direi, ragioniamo sia da un punto di vista sanitario, perché il prezzo da pagare della legalizzazione è altissimo da questo punto di vista qua. La legalizzazione del tabacco porta circa 80 miliardi di dollari in entrata negli Stati Uniti, ma ne spendono 180 per curare i danni che fanno da un punto di vista sanitario, questi sono dati del governo americano. Io poi consiglierei anche un'altra lettura, che non è chiaramente una lettura di un libro che è in vendita, ma è una lettura istituzionale. Noi abbiamo analizzato e messo all'interno di una pubblicazione scientifica che è sul nostro portale, sul sito del Dipartimento del Governo, quindi, no, che spiega le ragioni del perché no la legalizzazione. Ma sono ragioni che non sono né ragioni etiche, morali, eccetera, ma ragioni che prendono in considerazione gli aspetti sanitari, aumentando la diffusione e la disponibilità, aumenta il consumo, questo è la palissiano, no? Poi c'è un altro problema legato alla legalizzazione, perché abbiamo anche analizzato per vedere la possibilità della sostenibilità in termini programmatori e organizzativi, andando a vedere anche quale grado di legalizzazione bisogna dare o bisognerebbe dare per ottenere un modello che sia efficace da un punto di vista economico. È un'illusione quella che le mafie possono essere vinto, i proventi delle mafie con questo tipo di cose. Ora, spiegarlo nel dettaglio mi risulta difficile, però c'è una pubblicazione che spiega tutte queste cose qui ed è una pubblicazione istituzionale. Poi il dibattito si può fare, è chiaro che la scelta politica è una scelta che non ci compete, ma noi come tecnici dobbiamo dare tutti gli elementi per poter dare ai decisori politici quelle quegli elementi che servono per prendere una decisione che sia poi nell'interesse della salute pubblica. Anche qua c'è da fare un bilanciamento. Ho apprezzato anche l'intervento del magistrato e credo anche le parole di Saviano, che hanno riconosciuto che il nostro paese ha un ottimo apparato di repressione nei confronti dei trafficanti e degli spacciatori. No, d'altronde abbiamo dovuto fare di necessità virtù, perché la mafia è nata qui e quindi necessariamente abbiamo imparato a contrastarla, no? Però ecco, io concludo dicendo, siamo anche apprezzati per un altro tipo di approccio a livello europeo, che poi l'Europa l'ha preso anche da noi. Io sono sui tavoli di Bruxelles a rappresentare il nostro governo, chiaramente. Qual è? È il cosiddetto approccio bilanciato. Da una parte bisogna reprimere quello che possono essere il traffico e lo spazio, ma dall'altra bisogna incrementare sempre di più in maniera coordinata prevenzione, cura e riabilitazione. Il punto è chiaro, Serpelloni. Io vorrei chiudere, abbiamo veramente 40 secondi, Pennisi, sulla sollecitazione di Arlacchi di poco fa, che diceva il fatturato delle mafie si sta spostando dalle droghe ad altro, sostanzialmente, insomma, progressivamente, perché la coca sta diventando un affare molto rischioso. Guardi, in questa materia ci sono sempre corsi e ricorsi. Io ho ascoltato ciò che diceva il professor Arlacchi e io sono portato a ritenere che oggi c'è un ritorno dell'interesse del crimine organizzato verso gli stupefacenti, per un motivo semplicissimo: perché sono un pochino in calo gli altri interessi della criminalità organizzata per via della crisi economica mondiale, europea e nazionale. Oggi c'è poco denaro che circola nei pubblici appalti. E quindi si vira di là. Devo chiedere scusa a Pennisi, però se no mi tagliano direttamente in onda. Un ringraziamento a tutti, alle ragazze del centralino, a Gianmarco Ferronato in regia, a Franco Piantanini in assistenza, Alessandro Marco Tulli in redazione. Ci sentiamo lunedì. Ricordati! Mancano 86 giorni all'aumento dell'IVA. Però a me mi sembra che questi partiti qua, tutti e tre, stanno giocando con le figurine. Te ne do due, me ne dai una, te ne do tre, te ne do due. Che la piantano di dire, non siamo qui mica a vendere le noccioline. Voi siete lì per noi, non per voi. Ma fate qualcosa in fretta, perché l'Italia sta morendo. E io sono uno di quelli. Radio 24. La passione si sente.